alla nostra. Urlo come il quadro alla mostra. Questa vodka vale quel che costa. Con l'ansia nella borsa, freddo nelle ossa come a Mosca. Piazza Rossa, Piazza Rossa. Alla nostra, a una notte che andrebbe rimossa. Una storia dentro una più grossa, come una matriosca. Freddo nelle ossa come a Mosca. Piazza Rossa, Piazza Rossa. La vita è una troia ed è breve. La strofe per te la scrivo sulla neve. Perché sei fredda come l'Antartide. Una replicante come Blade Runner. Perché sei fredda come il sashimi. I tuoi occhi freddi come assassini. I miei occhi rossi sotto questo park. Rotto dall'asma, mi figella il plasma. Perché sei fredda come l'Alaska. Vorrei rubarti come Vallanzasca. Tu sei un piranha nella mia vasca. Fredda la canna, puntata in testa. Io che impazzisco, vengo internato. Tu mi hai ghiacciato, vengo ibernato. Siamo sub-zero come Mortal Kombat. C'è solo il cielo che ci circonda. Alla nostra, urlo come il quadro alla mostra. Questa vodka vale quel che costa. Con l'ansia nella borsa, freddo nelle ossa come a Mosca. Piazza Rossa, Piazza Rossa. Alla nostra, a una notte che andrebbe rimossa. Una storia dentro una più grossa, come una matriosca. Freddo nelle ossa come a Mosca. Piazza Rossa, Piazza Rossa. Il mio cuore ormai di pietra come quel cartello appeso al bar di Bruno. Che alla fine per colpa di pochi non si fa più credito a nessuno. Lei dorme truccata come se nei sogni spera di incontrare uno. La capisco, sono un uomo oscuro, un uomo che proietta ombra al buio. E ho solo scambi da cui sganciarmi con uno schiocco di dita. La donna giusta rende duro il tuo cazzo, non la tua cazzo di vita. Cercavi una persona onesta, beh, è pieno il metro la mattina. Più grosso questo mal di testa, beh, più grossa sarà l'aspirina, quindi. Alla nostra, urlo come il quadro alla mostra. Questa vodka vale quel che costa. Con l'ansia nella borsa, freddo nelle ossa come a Mosca. Piazza Rossa, Piazza Rossa. Alla nostra, a una notte che andrebbe rimossa. Una storia dentro una più grossa, come una matriosca. Freddo nelle ossa come a Mosca. Piazza Rossa, Piazza Rossa. Una canzone triste suona soltanto per me. La pace non esiste, cerco soltanto un perché. Ma non sai che freddo fa. Che fredda è la realtà. Dio c'è ma non è qua.